voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Signor sindaco! Che c'è? C'è la vedova Pizzini con la figlia Patrizia! Ma che vuole questa checachezza prima mattina? Non ci sono! Thank you. Ammettetelo, avete avuto una sorta di spiazzamento, no? Nel sentire questo brano, sentire le sue prime note, i suoi primi secondi passare e non succedere nulla. Di solito succede qualcosa quando sentite queste note, magari a volte quasi subito, a volte dopo qualche secondo, dipende anche dai tempi di preparazione, visto che qua è tutto fatto in casa, è tutto da solo, quindi a volte magari recuperare la pagina di un libro può richiedere più tempo. Però lo avevo pronto nel cilindro da un sacco come possibile scelta per Profumo di Eclettica, quindi per andare a ripescare nelle vecchie playlist, fra l'altro scelta suggerita anche da molti fra voi a giulia@radiorockfm.com, ed è arrivato anche il suo turno. Sto parlando del disco a nome Valley of the Giants, che non è un gruppo ma è un super gruppo post rock canadese di cui hanno fatto parte ormai a 3 anni di distanza, anzi 4 anni di distanza, visto che siamo nel 2007, possiamo dire che è stato un esperimento così un po' estemporaneo, di cui facevano parte componenti di band come Broken Social Scene, come Godspeed You Black Emperor, Silver Mount Zion, Do Make Say Think e altri gruppi canadesi. Uscito per la Arts and Crafts, il brano che ci siamo ascoltati aveva per titolo Claudia and Klaus, e questo il titolo del pezzo appena passato. Lo ritroverete nelle playlist di Eclettica, sempre disponibili su myspace.com/eclettica, oppure direttamente recapitate nella vostra casella di posta nel caso siate iscritti alla lista nera. Quest'oggi abbiamo aperto con Napoli, un artista, una donna di nome Libera Velo, album dal titolo Riffa, che in napoletano è un'improvvisata lotteria rionale, poi è diventato un termine di uso comune in italiano, in pratica un modo per accumulare giusti soldi per la sopravvivenza quotidiana. E lei, che da anni ha collaborato come corista con i 24 Grana, ha deciso di uscire con un disco progetto di 12 brani in cui provare a giocarsela, infatti c'è la mano in copertina. Un disco arrangiato da Renato Minale, che poi è il batterista dei 24 Grana, dal quale noi ci siamo ascoltati Purga, la traccia numero 2, che esce per la seppur piccola Octopus Records, però con una distribuzione più che adeguata, quella della Promorama, ovvero sia Wide Records. Invece è una completa autoproduzione, la seconda della loro carriera, quella che è arrivata nella mia casella di posta da Roma, l'ho ascoltata e ho deciso di trasmettervela. Ci sono due brani possibili, uno è quello che vi ascoltate oggi e l'altro, riallacciandomi un po' al passaggio degli Avion Travel di settimana scorsa all'interno di Eclettica, è un brano che rifà Paolo Conte, magari quello me lo tengo buono per un'altra settimana. Quest'oggi ci ascoltiamo i Fumisteri da questo nuovo CD che segue il loro esordio autoprodotto Scandalo negli Abissi del 2003, dal titolo, questo nuovo, Kreuze und Krokodile. Noi ci ascoltiamo la traccia che lo apre, sì, ci voleva la R, si tratta di Simboli e Segni. Andavo fuori sui precipizi. lame e rasoi di miei principi. Questa volta ci sono, tranquilli. Molte ragazze davvero belle hanno dei piedi davvero brutti e Mindy Metalman non fa eccezione, pensa Lenore all'improvviso. Sono piatti e lunghi, con le dita strombate e i mignoli afflitti da bottoni di una callosità giallognola che riappare a mo' di battiscopa lungo i calcagni, e sul dosso dei piedi sbucano peluzzi neri arricciati e lo smalto rosso è screpolato e si scrosta a boccoli per quant'è vecchio, mostrando qua e là striature bianchicce. Lenore se ne accorge solo perché Mindy si è chinata in avanti sulla sedia accanto al minifrigo per staccare dalle unghie dei piedi appunto un paio di fiocchi di smalto. I lembi dell'accappatoio si dischiudono su un generoso scorcio di scollatura, decisamente più sostanziosa di quella di Lenore. E lo spesso asciugamano bianco che cinge la chioma zuppa e sciampizzata di Mindy si è allentato, una ciocca di capelli scuri è sgusciata tra le pieghe e scende leggiadra, incorniciandole la guancia fin sul mento. Nella stanza c'è odore di shampoo Flex, ma anche di canne, poiché Clarisse e Sushou si stanno facendo uno spino bello grosso che Lenore ha ricevuto in dono da Ed Kriener alla Shaker School e ha portato qui al college insieme ad altra roba per Clarisse. Questo era l'incipit della Scopa del Sistema di David Foster Wallace. Je traîne, je vis tranquille. La situazione ingarbuglieta! La politica mondiale è una stronzetta! Through the sliding doors, why would I mind? Le cose in Eclettica nascono in maniera abbastanza casuale, ma poi assumono anche un loro senso compiuto. Per esempio, vi siete appena ascoltati in stretta sequenza, prima Mocha da parte dei Grimoon e poi Parentesis da parte dei Blow. E questo doppio passaggio mi ha fatto venire in mente come per entrambi, io mi ero già comunque appuntato anche di altre canzoni che ritenevo significative, quindi devo andare a sostituire nelle playlist di Eclettica queste due che vi siete appena ascoltati con qualche altra, magari a volte succede, ritornando anche indietro nel caso ci venga un po' di nostalgia sulle vecchie atmosfere delle Eclettica passate. Ora chiudiamo la seconda parte di Eclettica con un gruppo che proviene da Seattle, Washington. Loro si chiamano The Long Winters, i lunghi inverni. Incidono per l'olandese Munich Records e il brano che chiude questa seconda parte di Eclettica ha per titolo Push Over. Try. I'd love an answer that isn't sly. Oh, so you say. Don't toast the day before the twilight. For you, I'm a pushover. I would. I just want you to say, come on. Like a deed to the world without the talk. As you wade through the crowd, I sit next to you, the seat's still warm. For you, I'm a pushover. Eclettica, fine della seconda parte.